Lode del buon secolo. Conchiuderemo, senza più avanti parlar dell'altre lingue, le regole del volgar nostro doversi prendere da nostri vecchi autori, cioè da quelli che scrissero dell'anno 1300 fino al 1400, perciò che innanzi non era ancor venuto al colmo del suo più bel fiore il linguaggio, e dopo, senza alcun dubbio, subitamente diede principio a sfiorire. Leonardo Salviati.